la musica di sottofondo. Ma siamo partiti benissimo e adesso abbiamo già fatto un bianco. Mi sembra giusto. Scusa, presentiamo anche gli altri ospiti. Presentiamo gli altri ospiti. Abbiamo niente po' di meno che Simona Pinelli. Allora, gente di Casalecchio sarà tutta collegata con noi. Sì, in questo se non momento. Fosse che a Casalecchio Radio Città Fujiko si sente malissimo. Infatti ho detto via web, andate tutti sulla web radio. Esatto. Perché c'è un attimo il monte di San Luca. Da domani invece verranno aggiustate le frequenze. Fino alla croce si sente bene, dopodiché c'è un pezzo di vuoto tipo in centro a Casalecchio e poi di là si sente di nuovo. Come mai tu sai tutte queste cose su Casalecchio? Perché io sono nato e cresciuto a Casalecchio di Reno, per cui vedi un po'. Era un mio suddito, adesso infatti, un suddito. Esatto. Prima che arrivasse suddito. Simona come assessora, perché tu sei l'assessora, giusto? Assessora. Ok. E prima che arrivasse Simona io sono scappato a Bologna, naturalmente, per cui hai fatto, cioè, quindi sempre in controtempo come al solito. Sì, no, infatti, cioè, no, come le, al solito, le centri esatto. Sempre tutte. E poi abbiamo anche un terzo ospite. Un terzo incomodo che è Francesco Finotti. No, super. Francesco Finotti l'abbiamo già detto. Mi ero distratto. Pasquini l'abbiamo già perso. Esatto. Ospite è Andrea Luderniani. Grazie, perché io avevo già me l'ero scritto e avevo già perso il cognome. Questo è toxo spaziale, naturalmente, quindi ci sta. Che viene qui ad accompagnare l'assessore alla chitarra. Esatto. Cioè, lo applaudo io subito, così, grande. Anche no, io. Anche perché sono 30 anni che suoniamo insieme. Ma fantastico. Nel 2022 saranno 30 anni in cui lui è il mio chitarrista unico e adorato in tutti i gruppi che ho avuto. Ma fantastico, perché tu nasci come singer, come rock singer. Io nasco come storica dell'arte, però ho sempre fatto parallelamente la singer, esatto, dal 1986. Però. Nel 92 ho conosciuto il soggetto qui e da allora non ci siamo più lasciati. Cosa abbiamo avuto? 8 gruppi, 9 gruppi, dal blues di tutti i generi, veramente. Tutte le esperienze. Di tutti i tipi, feste, salsicce, piatti. Abbiamo anche matrimoni. Inaugurato il centro giovanile di Casalecchio nel 2005 con addirittura. Lui. Sì. Beh, insomma, è fantastico, cioè, no, avere infatti un assessore, assessora, che assessori, assessorutu, uso tutte le vocali, le uso tutte. E poi il chitarrista dell'assessore. Assessoris, comunque, della terza declinazione. Assessoris. Infatti. E l'assessoribus chitarrista. Esatto. Perché io non lo so, chiamiamo sempre gente che non sa latino, cioè che trasmissione siamo. Ma non so. Infatti incredibile. È abbastanza incredibile. Tipo Francesco, tu hai fatto liceo artistico, naturalmente. Comunque la voce dell'assessore singer molto bella, già così parlata. Mi faccio già lo spot. Secondo me possiamo anche cantarla subito. Vai. Cantiamo. Canta. Tengo il microfono così. Il microfono lo tieni così e non ti avvicinare troppo. Allora, abbiamo scelto tre pezzi che sono non solo esemplificativi del nostro rapporto, perché facciamo da sempre, ma parlano anche un po' di come sono io e anche un po' del mio assessorato, di la verità. Ah, ma è grandioso. Ecco, vedi, fantastico. Vabbè, e allora, questo è un assessorato geniale. Cominciamo, dico già oppure uno indovina? Poi, parto. Come preferisci? No, sei tu il conduttore. Allora dici che cosa ci per stai per cantare. Per una volta che posso subire. Raccontaci che cosa stai per cantare. Allora, il primo pezzo che facciamo è Talking About the Revolution di Tracy Chapman. Bellissimo, uno dei miei pezzi preferiti. Finalmente si ascolta un po' di musica, ecco, invece di sempre queste. Mi alzo in piedi per il diaframma. Allontanati un pochino però, perché ok, perché è sensibile, fidati che è sensibile. Per fortuna che è sensibile. Ok, dopodiché giuro che ti aggiusto, adesso tolgo la musica di sottofondo e anche me stesso, così magari si sente un po' meno la tangenziale e soprattutto gli aerei che atterrano. Però ahimè, devo dirvi che lasciamo le finestre aperte lo stesso. Vai e canta con noi. You know that talking about the revolution sounds like a whisper. Don't you know that talking about the revolution sounds like a whisper? While standing on the welfare lines, cry out that those are those armies of salvation wasting time in the employee line. See the round, wait for a promotion. Don't you know, talking about the revolution sounds like a whisper. Poor people gonna rise up and tear their shell. Poor people gonna rise up and they was there. Don't you know better to run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. And finally the table has started to turn. Talk about the revolution. Oh, and finally the table has started to turn. Talk about the revolution. Oh, while they're standing on the welfare lines. Try out the doors, the orders, armies of salvation. Wasting time in the employee line. Sit around, waiting for a promotion. Don't you know, they're talking about the revolution. Sounds like a whisper. Poor people gonna rise up and tear their shell. Poor people gonna rise up and they will stand. Don't you know it's better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run. Cause finally the table has started to turn. Talk about the revolution, oh no. Finally the table has started to turn. Talk about the revolution, oh no. Talk about the revolution, oh no. Talk about the revolution, oh no. Talk about the revolution, oh no. Bravissimo. Grazie, grazie. E vai così. Grande. È fantastico. E devo dire che per la prima volta sono riuscita a capire tutte le parole. Ah, vedi? Sì. C'ha anche un'ottima pronuncia. Anche uno spelling forse a me più familiare. Molto anglo-casalecchiese. Esatto. Anglo-casalecchiese. Cosa mi avete invitato a fare stasera? Cioè io giusto. No, infatti. No, tu devi fare. Ma stai scrivendo. Allora, Finotti sta scrivendo la Divina Commedia. Cioè. Tu sei un artista, cosa dire. Devi disegnare. Meno testo, no, in realtà adesso anzi passagli un attimo il microfono che dobbiamo chiedergli. Ah, Finotti, ma perché Finotti certo. È smicrofonato. Sei microfonato, però siccome preferisci con questo Con questo ti sento molto meglio. Allora raccontaci che cosa stai combinando con queste balle di fieno, perché non abbiamo capito niente. Allora io ho preferito far combinare ad altri, non ho combinato io, nel senso che a Rocchetta di Guiglia e siamo in provincia di Modena, è una frazione di Guiglia. Oppala. Ah, questo. Succede tutte le volte, okay. Per cui non ti preoccupare. E niente, mi è stato chiesto di curare e di dirigere un festival di arte pubblica, okay. Da far nascere nel 2023. Però allora, domanda numero uno: dov'è Guiglia? Guiglia è in provincia di Modena, sull'Appennino, in una zona molto bella. Domanda numero due: ma si sente Radio Città Fujiko a Guiglia? Assolutamente no, ma non si sente neanche a Bazzano. Se non si sente a Casalecchio, come, no, come io abito a Bazzano. Che a Bazzano forse sì. No, io sento sempre dal web. A Zola no. si sentiva benissimo. Perché a Casalecchio no e a Zola sì? Perché hai già scavallato il monte, si sente fino a Castelfranco, Non ti fidi. Però Bazzano effettivamente ha un po' di monti anche lei, per cui può darsi che a Bazzano un no. Un po'. Comunque, se volete dirci se si sente o non si sente, 333 180 94 94, potete mandare sms, whatsapp o telegram e poi ci dite se siete. Beh, se non si sente non ce lo potranno dire. Esatto, però se si sente invece possono dire sì, sono a Bazzano e vi sento, per dire, no? Quindi se non ci scrive nessuno noi non sapremo mai se è perché non ci ascoltano perché o perché non, non ci, ci sentono. Sentono. Vabbè, ma questo è così. Così se ma... a Bazzano si sente mi prendo anche degli accidenti, esatto. Da voi e dai bazzanesi. E dai bazzanesi, naturalmente. Cioè, comunque torniamo a Guiglia, che cosa succede sì. A Guiglia? Ma, e soprattutto quando? Allora, quando? Tutta l'estate. Tutta adesso, l'estate. Sì, abbiamo fatto creare agli studenti del liceo artistico Venturi di Modena, giocando molto d'azzardo, perché eravamo in pieno lockdown e si era deciso di fare un progetto pilota, l'associazione Amici di Rocchetta ha deciso di fare comunque qualcosa, ha detto proviamoci, e abbiamo messo in moto le classi terze della, due classi terze del liceo artistico Venturi di Modena, che salutiamo naturalmente, che salutiamo anche gli insegnanti che sono stati preziosissimi, sono stati bravissimi, sono venuti su anche a darci una mano. E niente, praticamente quando mi è stato chiesto di progettare, di pensare cosa questa, una seduta, una grande seduta pubblica in un luogo veramente meraviglioso, perché c'è una vista mozzafiato su tutto l'Appennino, si vede il Cimone di fronte, il Monte Cusna. Bellissima. È bellina, vero? Io sono olivetana. Ah, allora, ecco, no, la zona è molto bella. Olivetana, dice l'assessora. Eh sì, perché di Oliveto. Di Valsamoggia. Praticamente cioè, a braccetto potremmo andare noi due. Perché se Radio Città Fuggico non va alla montagna, la montagna viene a Radio Città Fuggico. Dunque. Scusate, vorrei, è inutile che tu mi guardi con questo sguardo ammiccante, come aspettandoti che io dicessi qualcosa. Perché mi toglie il microfono. Ah, e allora o parlo io o parlo Finotti. E oggi mi ha soppiantato in tutto. Però volevo dire che a Guiglia io ci passavo tutte le vacanze da ragazza. Addirittura. Sì. Quindi beh, ottimo, perché tutti sappiamo di che luogo stiamo parlando, tranne Pasquini. Tranne me. e anche tranne quelli che stanno passando con l'aereo sopra la nostra testa, probabilmente. Comunque ti puoi andare tutta l'estate, c'è questa nuova piazza, chiamiamola nuova piazza, perché l'unica cosa che abbiamo chiesto ai ragazzi del liceo è stato: considerate che fino adesso ci hanno fatto stare distanziati, bene. D'ora in avanti progettiamo qualcosa che ci faccia tornare tutti assieme. Questa è l'unica cosa. Io ho fatto un paio di lezioni di arte pubblica a loro e poi gli ho dato questo comandamento, unico comandamento. Unico. Pensate a qualcosa che ci faccia tornare a stare tutti assieme. Ed ha funzionato, perché siamo stati fortunati, perché ci è andato il via libera. Con le zone rosse, ha detto ok, potete andare benissimo. Pensando a Guiglia, naturalmente. La press del Venturi è stata molto lungimirante, perché grazie al progetti scuola lavoro ha messo questo progetto in ballo, e loro hanno potuto andavano a scuola nonostante la zona rossa. Siamo andati in presenza, almeno un giorno alla settimana potevano andare in presenza, e quindi siamo riusciti a progettare, a portare avanti questo lavoro che si è già inaugurato il 5 di luglio. Il 5 di luglio non è ancora arrivato. Il 5 di giugno, cosa sto dicendo? Di luglio. Perché siccome ogni tanto facciamo delle trasmissioni registrate. Ma Guiglia sono avanti, ragazzi. No, e dimmi un po', e dunque che cosa succede in questa nuova piazza? Ma la cosa buffa è che un signore del posto è venuto lì e mi ha detto: ma scusate, ma ci fate degli spettacoli? E io mi sono girato verso questo bellissimo paesaggio e gli ho detto: ma guarda, lo spettacolo c'è già, non c'è bisogno di fare nulla. Grande. C'è bisogno di stare qui e di fare delle chiacchiere. Di fianco c'è un bellissimo, buonissimo birrificio artigianale. Perfetto. E dove uno può prendersi delle birre lì a 100 metri e poi dopo se ne sta seduto. Bello come il sole a guardare un paesaggio mozzafiato. Ma poi dunque non ci saranno spettacoli dunque? No. Ci saranno le persone che adesso si stanno muovendo, associazioni, la cosa piacevole certo, è questa, no? Perché nel momento in cui costruisci uno spazio di incontri esattamente chiedono di poterlo utilizzare. Questo è stato un po' il punto di forza, e tu lì sei il capo, per cui decidi tu chi veramente no. è il presidente Florenzo dell'associazione Amici di Rocchetta. Ma ci sono delle opere? Però ci sono delle opere, per ora no. Il festival di arte pubblica nascerà nel 2023. per cui ti avremo di nuovo fra un paio d'anni. Ricordatevi Francesco Finotti, che ricordatemi che dobbiamo richiamarlo nel 2023. Secondo me Chiara mi sta rimproverando, perché lei ha letto correttamente il comunicato stampa, probabilmente. Okay. E si ricorda che c'è un artista locale, Francesco Bondioli, che invece espone delle opere. Ah, vedi. Le ha esposte soprattutto per l'inaugurazione. C'è sempre un artista locale che si infila. Beh, no, però è molto piacevole, okay. Quindi ci ha fatto molto piacere accoglierlo. Grande, ottimo. E sì. No, niente, adesso Francesco mi ha passato il microfono, quindi per cui io ha detto tutto quello che bisognava dire. Sì, direi di sì. Ok, ha detto tutto. Allora tu spiegami invece come si fa ad andare a Guiglia. A Guiglia. Allora si prende la Bazzanese, si arriva a Vignola, e quando sopra Vignola, quando allora si è a Vignola si piega su verso la montagna, tenendola a sinistra, mi sembra di ricordare, si sale su e poi si arriva dopo un autovelox, 3-4 tornanti, non mi ricordo. In questo piazzale dove sulla sinistra sempre c'è uno spaccio dove facevano delle cose molto buone da mangiare, che si chiama Salusti, che Finotti non lo conosce, però insomma io non mancherei di farmi fare un panino lì. Okay. Poi dopo invece si piega sulla destra, lasciando Salusti sulla sinistra, e si arriva in centro a Guiglia, e poi dopo, proseguendo ancora, ci sono i sassi di Rocca Malatina, che sono anche, esatto, molto belli. Hai capito. Infatti il posto è molto bello, perché c'è un anello praticamente di 12 chilometri e prende dentro anche il parco regionale dei Sassi di Rocca Malatina. Hai, esatto, capito. Ma dimmi un po', ma come mai hanno chiamato te a fare questo progetto, di tutte le persone che ci sono da quelle parti? Bravo. Vero? E se Pasquini con una punta di invidia. No, io non sono di quelle parti, cioè non c'entro niente, e probabilmente non sarei neanche stato in grado di pensare a una roba del genere. È un architetto che mi ha messo in contatto con loro, e comunque appunto, come l'assessore qui al mio fianco sa, il nostro territorio è confinante con il territorio del comune di Guiglia, quindi siamo proprio a un passo, un quarto d'ora, infatti anche da Monteveglio si può arrivare a Guiglia. Assolutamente, anzi, io per perché andare... lei la dà un po' farraginosa la strada. Io vado da Monteveglio, Castello di Serravalle, e salgo e sono già a Guiglia. A un certo punto c'è un bivio a sinistra. No, io mi ero fermato alla Rocca di Bazzano, devo dire, anche quando abitavo a zona. Vivi proprio nella tua torre d'avorio, te? Sì, abbastanza. Mentre invece tu organizzavi il festival Zola Jazz, o sbaglio? Me lo sono inventato io. Sì, per 12 anni ho organizzato il Festival Zola Jazz & Wine, che adesso, essendo io assessore, però ospito a Casalecchio di Reno per la prima volta, quindi... No, infatti mi era sembrato di aver visto Zola Jazz & Wine a Casalecchio. Esatto, Jordan, no, anche perché... Cioè, presumo che tu lo sappia, c'è sempre stato un po' di attrito tra izzolesi e casalecchini. Ma io e la Giulia degli Esposti, che fra l'altro saluto, non so se mi stia ascoltando, andiamo d'accordissimo che è l'assessora di Zola, ed è un progetto anch'io che accarezziamo da tempo, di allargare Zola Jazz & Wine agli altri territori. State attenti, che dopo poi voglio fare un comune unico. Già siamo lì, perché il nostro comune, il comune di Casalecchio, all'interno di un distretto che si chiama Reno Lavino Samoggia, che si chiama Unione dei Comuni, che unisce Casalecchio, Zola, Monte San Pietro, Val Samoggia e Sasso Marconi. Facciamo dei progetti comuni, come Crinali, per esempio, che ha come direttori artistici Claudio Carboni e Carlo Maver, che è diffuso in tutta la città metropolitana. Infatti poi ci devi raccontare un sacco Crinali, di tutto. Crinali è musicale, letterario, circense, cioè praticamente sono delle passeggiate dove tu a sorpresa trovi un musicista sparso in un campo di grano, un circense sotto un albero. Sparso, letteralmente sparso. Cioè la gente cammina sparso. E a Casalecchio facciamo tre date. Ma torniamo a Zola Jazz & Wine. Il 3 luglio, quindi, che è qui. È venerdì, non è sabato. Sabato 3 luglio, Zola Jazz & Wine fa la data alla cantina Marescalchi a Tizzano. Per la prima volta nella storia di Zola Jazz & Wine, che io appunto ho portato avanti dal 2008 fino a che non sono diventata assessore, perché poi, diciamo, per ovvi motivi. Diciamo che non è che puoi fare tutto, anche perché ti occupi anche di altre cose. Esatto, mi occupo anche di altre cose, perché coordino i servizi museali di Genus Bononi e via andando. Ecco, vedi, quante cose. Sì, no, infatti, quanti piedi in sono quante staffe sono titolare di una società che si chiama Comunicamente. Esatto. Se riuscissi, canterei anche. Canteresti anche. Canterei anche. C'ho anche un figlio di 19 anni, poverino, sparso anche lui. Anche lui sparso nei campi con il musicista. E c'hai anche un chitarrista che è qua che freme. Che freme per un altro pezzo. Mentre invece. Facciamo passare l'aereo, ma nel frattempo facciamo anche passare la pubblicità delle 7:30. Ma siamo già là? Spaziale. Direttore sanitario, dottor Francesco Comerci. Sono Cesare Pietro Iusti e stai ascoltando Coxo Spaziale. Ed eccoci qua, siamo tornati. Siamo tornati con anche un sacco di rumore di fondo, scusateci, ma noi non vorremmo. Siamo tutti disorganizzati, perché non siamo abituati ad avere tutta questa gente. Io poi sono stata messa tra le due stanze, sono qua in mezzo. Tu sei un po' in punizione. Sono oggi. Un po' in punizione, ecco. Ho la cuffia scarsa che mi cade, esatto. Il microfono che o parlo io o parla Finotti. La porta che tende a sbattere, se la dobbiamo tenere così. Io ho la musica di sottofondo che tende a non sentirsi, ma va bene con lo stesso. Gli aerei passano più spesso del solito, insomma, questo è. E stanno spaziale. Al cielo come le navi al mare. Siamo in una pozza di caldo viciniale. Esatto. Sì, fra l'altro voi avete il ventilatore dalla vostra parte. Diamo una meraviglia. State una meraviglia. Finotti sta facendo, cioè è già la seconda pagina di appunti fronte retro, che io non ne ho mai fatto più di una fronte solo fronte, e però è comparso un primo disegno, dopo noi lo postiamo, quindi impegnati, eh. Oh, mi raccomando. Bene, bene, ok. No, ma torniamo a Simona, che c'hai un sacco di robe da raccontarci, perché è partita la stagione di Casalecchio estivo che non ha nulla da invidiare a nessun altro, né a Calderara, né a Bologna, né a tutti gli altri. No. Cioè, io infatti un po' di robe l'avevo detto dopo la vostra conferenza stampa, ma non è che potevo raccontare tutto quello che facevate, me lo devi raccontare tu in 3 minuti. No, anche perché adesso siamo più avanti, diciamo, rispetto alla conferenza stampa. Quindi... Alcune cose sono già passate. Allora, ma il cartellone si chiama Mente Fresca e devo dire che infatti sono più di 100 eventi che sono cominciati il 4 di giugno. 120 eventi ma 100, o 120? Circa 100 eventi. Facevo il cretino, no, scusa. 120 e con questa andiamo avanti per 6 puntate. Intrattenimenti. Esatto. Posso andare avanti con i sinonimi contrari della Treccani? Vadi. È iniziato il 4 giugno e finisce il 24 di settembre. Continuativamente. Cioè, voi tirate dritto anche tutto agosto? Al contrario di Bologna, che invece in agosto fa quasi niente. No, tranne Coxo Spaziale, per cui mi raccomando, ascoltateci tutti i lunedì. No, tiriamo dritto anche in agosto, perché poi ci sarà il cinema. E il bello è che quest'anno sono riuscita a fare il mio bandino. Fate il mio bandino. Il tuo bandino. Il mio mini bando. Sì, ho fatto un mini bando dove sono riuscita anche a dar 2 lire, perché ho deciso che i miei soldini li davo per far ripartire chi aveva tanto sofferto. Cioè gli operatori della cultura. Beh, ma questo veramente merita un applauso. Abbiamo l'applausometro. Non abbiamo l'applausometro. 2 lire. Sì, era veramente 2 lire. Sì, ma e quindi le associazioni di Casalecchio, insieme ai luoghi di Casalecchio, si sono tutti uniti per fare questo cartellone dove, fra l'altro, i vari cappelli, diciamo, quindi equilibri, il cinema, il teatro, però vanno da un luogo all'altro, che sono la Casa delle Acque, la Casa Museo Nena, che è questo museino che ho a Casalecchio appena aperto, che è carinissimo. Adesso di questo però ce ne parli poi meglio, quando... Ah, Casa Nena è uno spettacolo, anzi, perché sai che sui museini, saluti fratelli Scesi, aperto adesso, aperto a ottobre, un museino fresco. Così. Adesso fresco, tutti i musei che chiudono, guarda, ne apre una a Casalecchio, ma grandioso, con un giardino che è un bijou dove abbiamo messo l'arena estiva, abbiamo fatto Politicamente Scorretto tutta lì e facciamo spettacoli, abbiamo fatto il circo, poi ci saranno altre cose. E Casa Nena è diventata proprio parte del famiglione, insieme poi a Spazio Eco, Piazza del Popolo, il teatro, la Casa della Conoscenza, quindi tutti i luoghi, la Casa della Pace, tutti i luoghi sequestrati, obbligati da me a fare una programmazione che va dalla musica folk appunto al circo, al cinema, alle presentazioni di libri, docufilm. Poi abbiamo le Mente Locale che viene da noi, Crinale che viene da noi, Per Aspera che viene da noi, Itacà che viene da noi, il Parco Talon della Chiusa, Parco della Chiusa, ex Talon, dove ieri abbiamo fatto la ricostruzione dell'itinerario rossiniano con tutti i vestiti da 800. Guardate sulla mia chissà che festa. Freschino sono stato, no, ma ieri stava anche bene, è vero, ieri erano tutti vestiti, hanno fatto i balli, hanno fatto tutto questo picnic tutto che sostenibile meraviglia. Con le cose di ceramica, così diamo anche un messaggio. Ma tutto questo, cioè tutto sto programma, dove lo troviamo? Allora si trova sul sito di Casalecchio, direi, no, che è Casalecchio, aspetta, non te lo ricordo, Casalecchio punto, no, comune punto Casalecchio punto bo punto it, grande, oppure su Google metti A Mente Fresca 2021 e ti vai subito sulla pagina e scarichi il programma. Fantastico. Tu googli A Mente Fresca 2021, chiami l'assessore, l'assessore fa tipo la biblioteca parlante, altrimenti vai su coxospaziale.blogspot.com dove che domani ci sarà, metteremo tutto. Tutti i link, bravo, metti tutti i link, esatto. Anche perché sta arrivando un altro aereo, sta arrivando un altro aereo, no, in realtà quello che sta arrivando è anche questo, l'angolo della menzione. Ovvero, perché tu devi sapere che noi ogni puntata facciamo l'angolo della menzione, ovvero menzioniamo due cose questa volta. Una cosa che succede domani, martedì 29 giugno alle 19 al Giardino del Guasto, c'è la presentazione del libro The Whale Theory, un immaginario animale di Claudia Losi. Dialogano con l'artista Lorenzo Balbi, il direttore artistico del Mambo che conosciamo, Fabiola Naldi, docente, critica e curatrice, Gioia Laura Iannilli, ricercatrice dell'Università di Bologna, e Simona Brighetti, patto per la lettura a Bologna. E questo è al Giardino del Guasto domani alle 19. E poi invece, ritornando alla puntata della settimana scorsa, se per caso non vi è bastato la puntata su Andrea Inglese, mercoledì 30 giugno alle 21 online l'autore presenta il suo libro La vita adulta, e questo è il link, lo troverete nel sito di Ponte alle Grazie, ma lo pubblichiamo poi noi domattina rilanciandolo su www.coxospaziale.blogspot.com. E così abbiamo finito anche le menzioni e possiamo continuare a raccontarci, anzi no, è già ora di un'altra canzone, perché sennò Francesco qua Finotti ha fatto il ritratto di qualcuno che forse sono io, comunque assomiglia un po' a Andrea Inglese, okay, più che a me, secondo no, me. No, secondo me è uno generico con gli occhiali, posso essere io, poi essere te. Potrei essere anche Andrea. Perché siamo tutti abbastanza occhiali, io me le ce le ho sulle teste. Me le sono messe in testa, però quando io ce bisogna li ho di leggere inforcati, me come metto. Andrea e come la che cosa ci cantate questa allora, volta? Allora, altro cavallone di battaglia qui, Creedence Clearwater Revival, wow, Proud Mary, che è un po' la storia anche della mia vita, perché io sono un po' così, un po' proud Mary, perché il mio soprannome è Sima, Proud Sim, Proud Mary. Vai, ti ascoltiamo. Job in the city, working for the man every night and day, but I never lost a minute of his sleeping, worrying about the way in the night I've been. Oh, big wheels keep on turning, Proud Mary keep on spawning, we start rolling, rolling, rolling on a river. Clean a lot of plate in Memphis, pump a lot of paint down in New Orleans. Well, I never saw the good side of the city till I hit you right on the river boat. We know big wheel keep on turning, Proud Mary keep on spawning. We start rolling, yeah, rolling, yeah, rolling on a river. If you go down to the river, but they gonna find some people who live. You don't have to worry if you have no money, born on the river, happy to give home big whiskey pontoning. Proud Mary keep on spawning. We start rolling, yeah, rolling, yeah, rolling on the river. Rolling, yeah, rolling, yeah, rolling on the river. Rolling, yeah, rolling, yeah, yeah, rolling on the river. Rolling, rolling, rolling, rolling on the river. Bravissimi, bravissimi. Ma a me veniva da mettermi a cantare, tanto solo mi sono trattenuta perché rovinavo tutto, obiettivamente. Hai capito? Hai capito. Poi dopo ne abbiamo un'altra che poi chiudiamo in bellezza. Assolutamente, che faremo abbastanza presto, anche perché qua il tempo scorre, che è una bellezza. Beh, quando si è in tanti, vedi? Infatti, è veramente un attimo. E poi. No, ma raccontami un po'. Cioè, tu non è da Simona, non è da tantissimo che tu sei assessore alla cultura. Com'è essere assessore alla cultura? Deve essere un bel viaggio, no? Allora, essere assessore alla cultura a Casalecchio è bellissimo. Ne approfitto per salutare la mia giunta, con cui mi trovo benissimo, che è una giunta proprio pari donne uomini, e Concetta Bevacqua, che è l'assessore alla scuola e al bilancio, Barbara Negroni, ambiente e urbanistica, con cui lavoro tantissimo, Massimo Basetti, va bene, a 2000 welfare sociale, informatica, poi c'è Matteo Ruggeri, sport, associazionismo e volontariato, Paolo Nanni, lavori pubblici, sicurezza, e poi c'è il nostro sindaco Massimo Bosso, list mat non l'est. È veramente un bel gruppo, facciamo un sacco di cose. A Casalecchio si sta bene, ovviamente ci si lamenta, perché è ovvio che bisogna lamentarsi, certo, bisogna pungolare le giunte, certo, eccetera eccetera, però è un bel posto con tantissimo spazi verdi. La chiusa di Casalecchio è una roba spettacolare. Infatti, passeggiare per il Lungo Reno è qualcosa di mistico, e in più appunto c'è Parco della Chiusa, è uno spettacolo. Parco della Chiusa è uno spettacolo. L'unica cosa, ricordatevi, la via della Lana e della Seta, quando il semaforo è giallo fermatevi immediatamente, perché c'è il fotoreg. Cioè, ci sono solo dei controlli semaforici a Casalecchio, esatto, è impressionante. Esatto, perché la gente va a scheggia, lo perché so, pensa di essere ancora in autostrada. Dovrebbero mettere anche in Via Arnerio, che uno oggi stava per tirarmi infatti, è passato proprio col rosso. Non solo in Via Arnerio, ma anche in Via Don Mindoni. Comunque, ma adesso poi lo diciamo a Lepore quando. A me essere assessore piace, poi tu mi conosci, sai. Ma tra assessori fate comunella, esatto, com'è? C'è un consesso di tutti gli assessori dell'Emilia Romagna, per dire poco. Questo è complicatissimo. Qua ci vogliono altri due cocchi. C'è la giunta che si riunisce un giorno alla settimana interna, poi c'è la giunta di distretto, che si riunisce anche quella una volta alla settimana, che riunisce quelli di Reno, Lavino, Samoggia, come vi ho spiegato prima. Poi c'è la città metropolitana, poi la città metropolitana che dialoga con la regione dialoga con il governo. È un po' a piramide, nel senso, ci sono delle cose che si fanno direttamente nel comune, nel distretto, con la città metropolitana, con la regione, bandi, progetti, eccetera eccetera, e poi finché si un bel casino. Io proporrei la partita di calcio, non so, assessori dell'Emilia, assessori della cultura dell'Emilia contro assessori della cultura della Romagna. Io voglio essere in squadra, avendo giocato a calcio anche 5 anni e mezzo, quindi ti mancava giusto quello. Sì, giusto. Ma qualunque cosa bisogna averla in squadra, Simone. Ma e dunque col contemporaneo, visto che tu sei una appassionatissima di arte contemporanea, cosa succede? Sono laureata. Cioè, io che appunto vengo da Casalecchio e non conosco nessuno a Casalecchio appassionato di arte contemporanea, mi chiedo che cosa succederà a Casalecchio grazie a te con l'arte contemporanea. Allora, innanzitutto bisogna trovare uno spazio per l'arte contemporanea. Adesso c'è un museo. Casa Museo Neno, però è un museo, è una casa museo dove c'è questa ricostruzione di questa casa ottocentesca. Cioè, casa mia non te la posso ancora dare. No, perché, casa mia non me la puoi dare. Però non sono ancora così famoso. Io sono da poter anche collezionista casa di Pasquini. Questo è. Hai questa fortuna. Lo sai benissimo. Adesso lo so benissimo, certo. Però adesso con il come si chiama? l'altarino, scopriamo, non lo so, dillo con parole sue, non prende, non a capo. Cioè, voi sei in conflitto di interessi. È un conflitto di interessi, esatto. Adesso che siamo in conflitto di interessi, chiudiamo la trasmissione e salutiamo tutti. No, allora, per l'arte contemporanea ci vorrebbe uno spazio, però. Farò un primo progetto in autunno sul Parco della Chiusa, lavorando con questa coppia che si chiama Burgio Gomez, e faremo un progetto di chiamiamolo land art, chiamiamola così, basato sul dialogo tra il materiale naturale trovato nel parco e il materiale artificiale, un po' tipo Anselmo, per intenderci, no? Sì. Una roba così, dove loro quindi a materiali artificiali lavorati affiancano materiale. Il progetto è molto bello, cioè nel senso che ho visto i bozzetti eccetera eccetera, e verrà fatto in autunno una prima parte di quello che sarebbe poi c'è un progetto con Flavio Favelli che sta andando un po' per le lunghe, ma ce la farò a farlo. Ma sì, perché lui è un po' lento, vero? E poi dopo adesso se ci sta ascoltando, ciao in canna, salutiamo Flavio ciao in canna, diciamo di darsi una mossa. Non è colpa sua, anzi, poveretto, non è assolutamente colpa sua. Sono proprio cose naturali, perché è in un posto un po' particolare. Poi dopo, con i ragazzi per esempio del centro giovanile, stiamo facendo questo progetto murales per avviarli alla street art, ne abbiamo già fatti parecchi, per cui l'arte ce l'ho sempre presente, ce l'ho sempre nel cuore. Ho avuto il semaforo di come si chiamano, il semaforo di Antonello Ghezzi in biblioteca per Art City 2019, per cui dove posso io. Però il controllo semaforico lì non c'era. No, lì non c'era. No, c'era il controllo semaforico, ma su. Lei è semaforo è blu. Ma esatto. Esatto, semaforo. Il controllo blu, semaforico per cui si poteva c'era passare. Perché chi non sapeva sognare non riusciva a guardare questo semaforo. Ho capito. Grande. Senti, ma invece il mostro, quel ma il mostro è vostro? No, di chi è il mostro? No, è di Zola. Non è nostro il mostro. Ah, è lì. Ok, il mostro è lì. È un posto bellissimo. No, ma chi è amico dell'assessore può andare a visitare il mostro? C'è un progetto anche sul mostro. No, non si può. No, okay, però c'è un progetto sul mostro che adesso non posso dire. Stay tuned, perché se riesco a fare quel progetto lì. Ci vedremo altre 6 o 7 volte. Dunque, con tutti sul questi mostro progetti. C'è un progetto. Ok, allora basta parlare e cantaci un'altra canzone. L'ultima. L'ultima canzone. Perché sennò qua è un disastro. Cioè, ti dovrò invitare altre 17 ci volte. 10 puntate. Infatti, per ospiti di questo calibro. Lo so. Allora, l'ultimo pezzo che faccio è un pezzo italiano, bisogna pur farlo. Ed è un pezzo di Loredana Bertè. Ma fantastico, io adoro Loredana. Che si chiama Dedicato, che è un po' anche questo, rispecchia abbastanza la storia della mia vita. È della Bertè o di Fossati? No, è scritto da Fossati, cantato dalla Bertè. Okay. C'è anche il chitarrista Pignolo. Il pezzo è di Fossati. Scritto da Fossati, cantato da Loredana Bertè. E adesso da me. Andiamo a cercare il pelo nel fuoco. Vorrei dedicare questo pezzo, se mi è permesso, ai miei amici musici. Ah, grande. Le fave di Fuca, cioè il mio primo, e i Good Old Boys, che appunto compiono 30 anni insieme. Speriamo a marzo 2022 di riuscire a fare questo concertone. Questo concertone per i nostri 30 anni. Con anche, gli aggiungo anche il crowdfunding per stampare il CD. Dai. Perfetto. Non so se ci conviene, ma il crowdfunding per pagare il posto dovremmo andare a suonare. Molto bene, dai, su. Vai. Sentiamo. Ai suonatori un po' sballati, ai balordi come me, a chi non sono mai piaciuta, a chi non ho incontrato chissà mai perché, ai dimenticati, ai playboy finiti e anche per me, a chi si guarda nello specchio da tempo non si vede più, a chi non ha uno specchio e forse non per questo non ce la fa più, a chi ha lavorato, a chi è troppo solo e va sempre più giù. Na na na na. A chi ha cercato la maniera e non l'ha trovata mai, alla faccia che ho stasera, dedicata a chi ha paura e a chi sta nei guai. Dedicato ai cattivi, che poi così cattivi non sono mai. Per chi ti cerca una volta sola e poi non ti cerca più, dedicato a chi capisce quando il gioco finisce e non si butta giù. Ai miei pensieri, ma come ero ieri e anche per me. Ananana, ananana, ananana. Schifo di canzone non può mica finire qui, basta giusto un'emozione dedicato all'amore, basta che sia così. Ai miei pensieri, a come ero ieri e anche per me. Ai miei pensieri, a come ero ieri e anche per me. Ai miei pensieri, a come ero ieri e anche per me. Yuhuhu, bravissimi, bravi, grandi. Grazie ad Andrea Luderniani e a tenere il microfono. Bravo Andrea, bravissimi. Grazie, grazie. Che voce, ma è una vera voce, dunque tu, rock, tu, dai, tu rock, canti rock, da, no, veramente voce. Rock, sì. Tu canti da sempre, giusto? Dall'86, sì. Dall'86. Sono anche arrivata a seconda emergenza rock. Quando io e Finotti avevamo 16 anni. Bravo. Aspetta che passi il microfono a Finotti che è silente da un sacco di minuti. Sì, no, infatti. No, sì. Ma va benissimo così, io ascoltavo Simone, perfetto, no? Cosa dobbiamo fare? Meglio di così? Meglio di così, niente. Cosa... Ma Francesco, cos'altro ci racconti tu? So che cosa. Ma raccontaci qualcosa di te. Ma di me, no, cosa vuoi Francesco sapere? Francesco Finotti è uno scultore magnifico, eh? Ma io continuo il mio percorso. Beh, sono felicemente un docente all'Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria. Che è qua a due passi. No? Due passi, grazie. Cioè, tu tiri verso la Svalsa Moggia, continui ad andare un grazie po' avanti. Grazie all'aereo è a due esatto. passi, per fortuna mia. Perfetto. E poi sì, continuo a fare il mio lavoro d'artista. Ma ti dico, mi piace molto, trovo sempre di più soddisfazione nel fare questi progetti partecipati. Anche quando ho fatto una mostra, eravamo due artisti emiliani per Matera Città della Cultura Europea 2019, mm-hmm. Con Danilo Ruggeri, eravamo due artisti, però ho spalmato e allargato il più possibile e ho fatto partecipare anche i progetti didattici, ho fatto gemellare Maranello con Matera. Con Matera. Sì, le ho fatto le rispettive gite, quindi non era neanche un gemellaggio virtuale. Magico, un magico mystery tour dei maranellesi a Matera. E lì ho capito che questo mi dà molta soddisfazione. Quindi anche qua, quando mi hanno chiesto in veste di artista di fare questo lavoro a Rocchetta di Guiglia, ho detto no, calma, sì, lo facciamo, ma... lo facciamo a modo mio, cioè spalmiamo e allarghiamo alle scuole, perché poi erano i ragazzi che avevano bisogno di uscire dalla didattica a distanza, no? In questo momento, quindi è stato molto bello. Ho capito. E Andrea, invece tu, oltre a schitarrare, che facci sentire la tua voce, che cos'altro combini nella vita? Ma io sono una un'identità così non ben definita nella società di crinale, sei un essere fluido. No, io feci legge disgraziatamente. Cavoli, abbiamo un può essere, può tornare utile, no, una laurea in legge. Sono stato uno di quelli che quando andava di moda tempo fa, adesso l'università forse la fanno un po' meno, non lo so. Ma ancora non ci sono arrivato. Io sono entrato nel grande fiume di quelli che facevano o scienze politiche o legge. E così, alla fine mi sono... ho chiuso a calci nel sedere. E ti sei data la chitarra, giustamente. E dopo sono passato alla chitarra. Ho però capito. No, basico, diciamo basico nel mondo dei notai. Così. Ho provato a fare il concorso timidamente una volta e poi ho detto forse è meglio che tu suoni la chitarra. Per un attimo avevo pensato che dicessi nel giro dei Notav. E non mi sarei sorpreso. Notav e Novax. Notav e Notai. Hai capito. Molto bene, e siccome sono le 19:57 io non posso fare altro che ringraziarvi tantissimo, Francesco Finotti. Grazie a voi, grazie Simona Pinelli. Grazie mille, grazie di avermi fatto conoscere Francesco Finotti, così ho un motivo in più per andare a Guiglia a mangiare i borlenghi. Vedi, fantastico. Ottima idea. Esatto. Fateci un salto quest'estate, sì. E naturalmente ringraziamo anche Chiara, Andrea. Grazie dell'invito. Io ero Stefano e questo era Coxo Spaziale. Naturalmente ci risentiamo lunedì prossimo. Abbiamo Maria Letizia Rotolo che ci presenta un libro. Perfetto, io sai che sarò bivaccinata. Sarai bivaccinata. Quindi non so se non sono febbricitante, sarò con voi. Molto bene, altrimenti ci sarò io che come al solito vengo accompagnato dalla simpatica voce del nostro direttore che dice così. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. E la sigla è come al solito. No, esatto. Indovina chi è? Jenny Owens. Yeah. Brava.